24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Eccoci qua alle 6:34 minuti, ci siamo anche oggi. Buongiorno cari ascoltatori, siamo qui con Miriam Lucchetti in redazione e con il nostro alpino Peter Bescapè in regia, che come al solito fa la sua azione più temeraria del mattino: aprire il nostro bar. Il caffè si può avere? Il caffè volentieri a tutti quanti. Aprire il nostro bar a Radio 24, che poi qui il caffè, attendiamo lo champagne da Nicole Minetti, perché lei come altri avrebbe maturato il vitalizio, c'è ancora questo mistero. Finché non ce lo chiariscono, se questo decreto del governo verrà recepito dalla regione Lombardia, Nicole Minetti, come tanti altri al primo mandato, potrebbe aver maturato il vitalizio da quando avrà 60 anni. Che? Ecco. Che? Ah, lo champagne! Certo, mi sembra giusto. Vedi che arriva prima o poi lo champagne. No, pensavo fosse un attentato qui a Radio 24. Allora, voglio salutare Alessandro Giglioli dell'Espresso. Piovono rane. Buongiorno. Hai visto? Buongiorno. Champagne, ciao, di prima mattina, così torniamo poi a letto un po' tutti ubriachi. Voglio salutare, invece lo troviamo in giro per il mondo, Edward Luttwak, ben ritrovato, buongiorno, dove si trova Luttwak? Sono a Tokyo. A Tokyo, e quindi insomma pieno giorno, non l'abbiamo fatto fare sveglie strane oggi. Senta, le è giunta la notizia dell'ultima di Elsa Fornero, ministro del lavoro, del welfare? No, lamentevolmente no. Lamentevolmente no. Gliela faccio sentire allora, la faccio sentire a tutti. È entrata nella bufera, di nuovo nella bufera, perché ha detto una cosa sulla quale io lo dico fin da subito. La difendo. La difendo perché intanto non ha detto quello che gli hanno messo in bocca. Però sentiamo dalle sue parole. Senta Luttwak, che perché usa una parola inglese che quindi lei capirà subito. I giovani escono dalla scuola e devono trovare un'occupazione. Devono anche non essere troppo choosy, come dicono gli inglesi, cioè io lo dicevo sempre ai miei studenti: prenda la prima, poi da dentro lei si guarda intorno e lo fa, però bisogna entrare nel mercato del lavoro subito. Allora, ha sentito Luttwak, ha detto i giovani italiani non siano troppo choosy. Ma è una vecchia storia ma forse è una storia un po' antiquata, forse è una storia del meridione antico, che una volta laureato la persona era incapace di lavorare se non aveva una sedia, uno studio, poteva portare la cravatta e la giacca, eccetera. Evidentemente quando uso la parola inglese è per suggerire la cultura anglosassone del lavoro, cioè, se tu sei un fisico, professore di fisica che perde il posto, perché da noi anche i professori possono essere licenziati, tu fai il tassista allegramente fino a che non trovi un nuovo posto di lavoro, forse come direttore tecnico di una startup diventi miliardario. Ma quindi, sa come l'hanno tradotto? È un'economia che richiede agilità. Sì, ma i giornali italiani l'hanno tradotta così: non siate schizzinosi. In realtà, esattamente. Ma in realtà lei ha detto: io non ho mai detto schizzinosi, ho detto choosy, vuol dire non siate troppo selettivi. Non, esatto, non, esatto. L'importante è, per chi è disoccupato, è di lavorare, e non c'è nessuna, è la questione, uno si vede, è una questione di percezione, uno si vede che i vicini, gli amici di famiglia ti vedono lavorare come facchino alla stazione e tutti ridono di te, okay? Questo tipo di roba. Nell'economia globale di oggi chi vuole lavorare deve lavorare, lavora quello che può trovare e poi da lì va altrove. C'è grande mobilità e quindi non importa, non è che il fatto che hai guidato un taxi a San Francisco per 3 mesi ha nessun impatto sulla tua carriera. Sì, non è che la gente ti giudica per questo, però vorrei capire, Alessandro Giglioli ha davvero sbagliato, voglio dire, cioè cosa ha sbagliato in questo, cosa gli si imputa a Fornero, che ha detto: giovani non siate troppo selettivi, se c'è un posto di lavoro, e poi ha anche aggiunto, è vero nel mercato del lavoro adesso è difficile, ma non siate troppo selettivi, non cercate sempre il posto di lavoro perfetto, quello migliore, quello che vi darà, cominciate entrare nel mercato del lavoro in qualche modo. È davvero una cosa, una bestemmia quello che ha detto Elsa Fornero, per cui poi è stata contestata, è stata cacciata via da un'altra manifestazione. Giglioli, poi se vuoi parliamo della contestazione. Adesso io mi permetto di dire che la Fornero ha sbagliato su tre livelli. Il primo è che in un paese democratico sono i cittadini a dire ai politici quello che devono fare e non viceversa. Mm. E quindi questo stimolo dall'alto verso il basso fa parte della perversione contemporanea. Io credo che siano i cittadini a dover dire ai politici quello che fanno, non i politici a dire a noi quello che dobbiamo fare. Secondo, che siamo, per usare un'espressione inglese, quindi capirà anche la Fornero, siamo nell'era del blame the victim, prenditela con chi è vittima della situazione sociale. Questo mi pare veramente elegante. È questo l'errore che ha fatto, è questo l'errore più grave. La terza considerazione, se posso, l'ha fatta proprio ieri a Radio 24 da Parisoni un docente della Cattolica, che era intervistato dal vostro Parisoni, che spiegava, mi pare che si chiamasse Ferdinando Rosina, sì, e che spiegava come questo tipo di stimolo porta al ribasso, all'accettazione al ribasso nel mercato, non a migliorare se stessi, non a avere un ruolo che può migliorare se stessi e quindi la società. Beh, però lì è un equilibrio sottile, perché c'è anche guarda, sì. Rosina lo spiega in termini demografici perfetti. Sì, certo, però c'è anche il rischio, è vero, in tanti giovani di, come dire, no, ma no, quello non è proprio quello per cui ho studiato, quello ma non è lo proprio lo dice anche lui, ma che è una roba vecchia, questo è una roba, evidentemente Fornero ha rapporti, ha una visione dei giovani di 30, 40 anni fa, 50 anni fa, adesso conosci ragazzi che accettano di tutto e che vorrebbero. Certo, se io mi laureo in fisica e poi mi offrono un posto al call center per 2 ore e mezzo all'ora, come oggi avviene in Calabria, sì, sì, forse la valorizzazione del mio titolo di studio e quindi dei soldi che anche la collettività ha speso per me per farmi studiare all'università non raggiunge proprio il massimo, diciamo, no? Ecco, su questo vorrei ancora stimolare Lutva, che prima però sentiamo ancora Elsa Fornero, che poi ovviamente quando le agenzie hanno titolato ha dato degli schizzinosi ai ragazzi, ha smentito. Senti, ha un giornalista che glielo chiede col microfono, dice no, lei ha capito male. Sentiamo. Ministro, secondo lei i giovani italiani sono troppo schizzinosi quando cercano un lavoro? No, non l'ho mai detto, guardi, non l'ho mai detto. I giovani italiani, certamente, i giovani italiani oggi sono disposti a prendere qualunque lavoro, tant'è vero che oggi i giovani sono in condizioni di precarietà. Questa è stata, allora Lutva, questa è stata la precisazione. Allora ha sbagliato prima quando ha detto che sono troppo chiusi, oppure poi ha detto no, io non ho mai detto schizzinosi, anzi c'è precarietà nel mondo del lavoro, oggi i giovani prendono quello che capita. Sì, forse qui si deve mettere un po' d'accordo con se stessa il ministro Fornero, no? Beh, guarda, la cosa più, il fenomeno che si vede oggi è che laureati spagnoli, che a caso loro non sono disposti a prendere lavori non di diciamo non per laureati, poi vanno in Inghilterra o Irlanda e fanno i camerieri, e questo. L'albergo che frequento, Dublino, per lavoro, tutta manodopera spagnola, tutti laureati, tutta gente che fanno i camerieri lì e non farebbero a casa. Quindi ci sono queste attitudini, ok? Mm-hmm. C'è anche un altro fatto, che è anche una questione pratica, non solo psicologica, della mobilità. Una ragione che la disoccupazione americana è sempre più bassa di quello che dovrebbe essere secondo i dati macroeconomici è il fatto che l'americano si muove. Tu in Detroit, tu perdi il lavoro a Detroit perché la fabbrica chiude, prendi la macchina e vai in Texas e ti trovi un lavoro. Qui in Italia invece Detroit, eccetera eccetera, e metti tutto sull'automobile e via. Ora c'è gente in Italia, come in tutte le economie del mondo, incluso americana, che non sono disposte a muoversi, e questo riduce l'agilità. L'economia di oggi richiede agilità, devi insomma capacità di capacità di adattamento, capacità di muoversi, esatto. Non c'è più flessibilità, il posto fisso e sta roba così. Se esiste è perché paga malissimo e così via. Senta, le chiedo questo, approfittando del fatto che lei sta in Giappone, dove c'è stato, ricordiamo, un anno fa un terremoto devastante. Lo sa che in Italia il titolo di molti giornali che ci sono stati appena consegnati, 6 scienziati, o meglio 6 o 7, hanno preso 6 anni di carcere sono quelli della Commissione Grandi Rischi, perché non sono riusciti a prevedere, o meglio, hanno sottovalutato i rischi del terremoto. Poi quando... Beh, lo stavo leggendo sugli Amiri Shimbun proprio adesso. Che ne pensa dal punto di vista del Giappone? Certo, dal punto di vista del Giappone, che ne pensa? Questa notizia ha semplicemente, ti devo dire, ha aumentato il disprezzo in cui per il sistema di giustizia italiana, per i magistrati italiani, i procuratori italiani, eccetera. Mentre l'Italia è classificata numero 5, numero 6 nella creatività, nel disegno, la produzione, l'economia 6, 7, eccetera, quando si va alla giustizia, anche il World Economic Forum di Davos, eccetera, l'Italia è messa a 133, cioè il livello di Burkina Faso. Questo Burkina è dovuto all'arbitrarietà. Arbitrarietà, cioè l'idea che alcuni, scienziati, tutti i giornali scrivono come ridicolo al massimo. Ridicolo al massimo. Per processare persone per la sismologia, cioè sismologia aggravata diventa crimine. Sì, c'è da dire che vorrei partire da questa, che con Alessandro Giglioli, capito, dal punto di vista italiano, per carità, tutte le sentenze adesso si diranno, ma insomma, ci sono i morti, ma sì, ma massimo rispetto per le persone che hanno perso la vita all'Aquila, ma è davvero il caso di mettere sotto processo e condannare in primo grado degli scienziati perché hanno sottovalutato le scosse, come a dire che c'è una possibilità di prevedere i terremoti? E non vorrei ritornare alla questione solita del ricercatore o sedicente ricercatore Giuliani che dice io i terremoti li so prevedere. Cioè hanno, con questa sentenza, questo è vero, già in tutti i giornali del mondo, come dire, siamo lievemente presi in giro, degli scienziati condannati a 6 anni perché non hanno previsto il terremoto. Desiderate qualche cosa? Un caffè, con un po' di humor. Un caffè con humor? Che? Con humor. Non c'è più, è finito. Ci metto voce e fermate, è uguale. È uguale. Allora, siamo qua con Eduard Lutwak che ci parla da Tokyo e con Alessandro Giglioli e il suo Piovono Rane. Lo trovate così sia come blog sia su Twitter, lo trovate sull'Espresso. Allora, Alessandro, qui c'è da discutere di questa vicenda. Il Corriere della Sera apre su questo, per esempio, 6 anni agli scienziati per il terremoto. Gli scienziati che dicono adesso non parleremo più, ci sentiamo ridicolizzati in tutto il mondo. Ma che dobbiamo fare? Dobbiamo dire... c'è anche Boschi, l'ex presidente dell'Istituto di Vulcanologia, che dice ma io non è mio compito comunicare, io faccio lo scienziato. Io a quella riunione ho detto non possiamo né confermare né smentire, come per tutti i terremoti. Che dovevo fare? Dovevo dire a tutti scappate di casa, non vivete più nelle case, andate nelle macchine perché sennò rischiate di morire? Ma io sono un po' stupefatto, se devo dire, dal modo superficiale e se posso dire confuso in cui si commentano queste cose, perché forse possiamo andare un pochino oltre la reazione pavloviana del sono stati condannati perché non hanno previsto il terremoto, perché non è di questo che si parla. Sono stupefatto perché si stabiliscono delle verità sulla base di un articolo letto a Tokyo senza aver letto il dispositivo della sentenza, in attesa delle motivazioni della sentenza, senza aver seguito il processo. Chiunque abbia fatto un po' di cronaca giudiziaria, io ho avuto la fortuna di averla fatta in passato, è perfettamente consapevole del fatto che dare dei giudizi su una sentenza, non dico senza aver letto il dispositivo, ma almeno senza aver seguito in qualche modo l'andamento del processo, è cosa sempre, per ogni processo penale e civile, di una superficialità incredibile. Io quindi mi asterrei abbastanza, se posso, dal dare un giudizio di merito su questo. Ma per carità, sono stati 4 ore in camera di consiglio e che comunque l'imputazione non era evidentemente non aver previsto il terremoto, come si dice con una, scusami Milan, ma con una superficialità incredibile. L'imputazione era aver dato notizie deliberatamente e consapevolmente riduttive rispetto agli eventi sismici che erano già accaduti. Ecco, ma qui dire ridurre l'allarme, ma giustamente Boschi dice: non lo so se questi signori sono colpevoli o innocenti. Ripeto, se avessi seguito almeno in minima parte un'udienza, avessi letto qualcosa, ma questo sì, ma per carità, Alessandro. Nel dare giudizi sulle, scusa, su quello che fanno i tribunali, mi sembra veramente un ma no, ma la questione sì, ma siamo al bar la mattina, ma ho capito, ma allora non potremmo discutere di una sentenza. Vanno almeno un po' letti gli accadimenti delle udienze che ci sono state. Non si parla di previsione del terremoto, ma siamo impazienti. Ma no, però si dicono avvertimenti insufficienti. Che vuol dire quando sono stati relativamente a quello che era, c'era, io ripeto, adesso non fammi passare per colpevolista, perché io di questa vicenda non voglio essere né colpevolista, ma né per carità, seguito con attenzione. Ma se si dice relativamente, Alessandro, se si dice relativamente agli avvertimenti, agli eventi che c'erano già stati, avvertimenti sufficienti, vorrebbe dire che appunto uno in base agli eventi precedenti può prevedere che arriva un terremoto e non lo dice, o comunque non lo dice in maniera chiara. Se fosse vero che questi signori hanno sminuito consapevolmente per motivi politici, per motivi di ordine pubblico, gli accadimenti in corso, forse vale la pena di vedere. Ma quali certo, erano le accuse. Ma lo stesso Boschi dice, stesso Boschi da scienziato dice: io non posso sminuire nulla perché nulla è prevedibile di quello che succederà il giorno dopo, e dopo la scossa. È una bella confusione fra quello che è accaduto e quello che doveva accadere. Abbi pazienza, sono cose completamente diverse e non ci si riferisce evidentemente a capacità previsionali. Nessuno è così, credo, ingenuo da pensare che si possa prevedere un terremoto. Altro conto è, a fronte di accadimenti già avvenuti o che sono in corso, se è vero, avere un atteggiamento di ovattamento, di diminuzione dell'allarme dovuto a motivi politici e di ordine pubblico. Questa è un'altra cosa. Vabbè, Lutwak, su questo, per carità, lei da Tokyo, effettivamente, dice Giglioli, come fa a commentare una cosa che manco ha seguito neanche mezzo secondo? Ma io non credo che i dettagli, i piccoli dettagli della cosa sono importanti, perché c'è un contesto. Il contesto è che la ragione che il World Economic Forum ha messo l'Italia al 133 nella classifica globale per la giustizia è perché c'è un chiaro cultura di espandere il potere dei magistrati criminalizzando cose. Per esempio, ci sono stati processi per l'asbesto, per l'amianto, in 40 paesi, tutti i processi civili, tutti per recuperare soldi, per aiutare le vittime. Solo in Italia è stato criminalizzato. Beh, per carità, su quello l'azionista della fabbrica viene condannato penalmente. Su quello Lutwak, io sto totalmente da questa parte. Perché criminalizzare? Se i proprietari dell'Eternit sapevano, no, come è stato dimostrato. Non nel dettaglio, dico che c'erano 40. Ma i dettagli sono la realtà. Allora diciamo che ragioniamo in modo superficiale, perché siamo criminalizzato. Solo in Italia, quindi solo in Italia, ragione, e 40 paesi hanno torto. Solo l'Italia, sì. No, no. Solo in Italia è stato, solo in Italia diventa una questione penale. A Torino un certo Pirpiniello, non so come si chiama, e c'era un faccia il bravo Guariniello, di tutti i paesi industriali. Com'è che l'ha chiamato Lutwak? Com'è che la di Aquila si colloca in contesto? Cioè, com'è che l'ha chiamato Lutwak, il magistrato di Torino, che lo sa bene come si chiama, dai? Non lo so come si chiama. Guariniello. La cosa importante è che l'asbesto è una tragedia in 40 paesi industriali. Nessuno ha fatto un processo criminale, solo in Italia. Questo è smania di potere criminalizzando errori. In questo caso della sismologia non è che hanno lievemente preso in giro. Se tu vedi le storie, il New York Times, per esempio, cita il scienziato americano che dice che questo è comportamento incredibile. Sì. Galantuomo che tiene 6 figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, Castu Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le 3, voli da spremuto, ho volito un caffè. I giovani escono dalla scuola e devono trovare un'occupazione. Devono anche non essere troppo choosy, come dicono gli inglesi, cioè io lo dicevo sempre ai miei studenti, prenda la prima, poi da dentro lei si guarda intorno e lo fa, però bisogna entrare nel mercato del lavoro subito. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato. Chissà, fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date con forte lavoro, Eminenza vi bacio e vi imploro. Oggi parleremo di questa legge che è in discussione oggi alla Commissione Giustizia. La legge sulla, le nuove regole sulla diffamazione a mezzo stampa, perché dopo il caso del direttore del giornale Sallusti qualcuno dice si vuole fare una legge punitiva nei confronti della stampa. Ne parleremo con il senatore Lucio Malan, sarà nostro ospite, e il giornalista del Fatto Quotidiano Marco Lillo. Sarà con noi anche il presidente della provincia di Sondrio alle 8.15, una delle province che pare si possa salvare perché è una zona montuosa, ci sono le montagne e quindi forse c'è la deroga. Vedremo. Peter Pescapè ride, ma non è che è una presa in giro, l'ho letta così. Ma chiederemo al presidente della provincia di Sondrio, insieme a Belluno, pare si possano salvare perché sono più svantaggiate come territori, essendoci le montagne, quindi bisogna fare la provincia. E i giornali, appunto, in edicola. È martedì 23 ottobre, i titoli, il Sole 24 Ore, burocrazia, l'Italia bloccata. Per Repubblica invece cambia la manovra IRPEF. Ci sono vari giornali che aprono invece su questa sentenza sull'Aquila. 6 anni agli scienziati per il terremoto, così il Corriere della Sera. Il terremoto, sentenza shock, questo è il titolo del Messaggero, invece è lo stesso titolo del quotidiano nazionale Terremoto, sentenza shock. Manovra assedia Monti, questo per la Stampa. Mentre consigli scaduti non lavorano, prendono i soldi, il Fatto Quotidiano, riguardo alle regioni, disoccupazione e corruzione, questo è il titolo di apertura dell'Unità. Vedete, ogni giornale sceglie un'apertura diversa. Il Giornale, arriva pure l'eurotassa, fisco opprimente, si riferisce alla Tobin Tax, mentre Libero, niente soldi a famiglie e imprese, la banca paga solo Monti. Il Manifesto, lavoro da morire, sono i dati del ministero, del ministro Balduzzi, sull'ILVA e il collegamento con i tumori. Queste alcune delle aperture. Voglio subito, per non perdere tempo, andare a leggere qualcosa, cominciare da una pagina che trovate a firma Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, pagina 6. Regioni, un dipendente su tre è di troppo, questo è il titolo. Ci sarebbero 24.000 esuberi di personale nelle regioni italiane. È uno studio della Confartigianato, 24.396. Questa è la cifra incredibile a cui si giunge dopo inefficienze, sprechi, clientelismo. C'è un po' di tutto, scrive Sergio Rizzo, in questa cifra incredibile. Appunto, 24.396. Questo è il numero che rappresenta l'eccesso di personale nelle nostre regioni. Anziché le attuali 78.679 persone, dunque, ne sarebbero sufficienti 54.283. Già, ma come si è arrivati a questa cifra, racconta Sergio Rizzo, una cifra che, togliendo quelle in esubero, porterebbe a un risparmio di 2 miliardi e 500 milioni di euro l'anno. 2 miliardi e 500 milioni di euro l'anno, certo, però vorrebbe dire ci sono tante persone che perdono il posto di lavoro. Come si è arrivati a questa cifra? Le regioni, scrive Rizzo, sono state per prima suddivise in raggruppamenti omogenei per dimensione e categoria, all'interno dei quali si sono individuati i relativi benchmark: la Sardegna per le regioni a statuto speciale grandi, la provincia di Bolzano per quelle piccole, la Lombardia per le regioni ordinarie grandi e la Liguria per le regioni ordinarie piccole. Il calcolo è venuto di conseguenza. Risultati sorprendenti. In Molise, per esempio, i 3/4 del personale attualmente in servizio sarebbero in esubero, non necessari. 680 dipendenti su 902 della regione Molise non sarebbero necessari, secondo questo studio della Confartigianato. E poi la Campania, dove ben 4.746 impiegati su 7.501 risultano di troppo, più del 50%. Lo studio però non risparmia anche enti considerati più virtuosi come l'Emilia Romagna, la Toscana, il Veneto, che potrebbero fare a meno rispettivamente del 31,9%, del 34,4% e del 20,7% del personale. Soprattutto, scrive Sergio Rizzo, al sud. ci sono più esuberi. Il record siciliano è l'isola siciliana al 35,4% di esuberi teorici. E spende, pensate, la regione Sicilia spende per il personale poco meno di tutte le altre regioni messe insieme. La Sicilia, una sola regione, spende per il personale poco meno di tutte le altre regioni messe insieme. Regioni, un dipendente su tre di troppo. Interessante questa pagina di questo studio della Confartigianato a firma Sergio Rizzo sul Corriere della Sera. Allora, avete sentito anche nel GR Sport questa vicenda, questa appendice polemica, fortemente polemica, per un servizio andato in onda sulla Rai Piemonte di Juventus-Napoli, con il giornalista che chiede: come riconoscete i tifosi della Juventus? Riconoscete i napoletani dalla puzza? E poi ci sono i cori che inneggiano al Vesuvio. Insomma, racconta i giornali, purtroppo è un gran classico nei cori beceri da stadio. Certo però che non deve essere un classico e non deve accadere mai in un servizio televisivo, in un servizio giornalistico. La RAI sospende il giornalista della frase offensiva sui napoletani, così a pagina 25 il Corriere della Sera. Si distinguono dalla puzza, ha detto, ma tutti i giornali hanno una pagina su questo, razzismo anti-Napoli, la RAI sospende il cronista. Questo è il titolo del Messaggero, per esempio, e lo trovate a pagina 15. È intervenuto il sindaco di Napoli De Magistris, è intervenuto Saviano, sono intervenuti un po' tutti. E vanno a intervistare quelli di Repubblica, Matteo Salvini della Lega, ricordate che fu pizzicato a cantare un coro a una festa della Lega, un coro molto molto duro nei confronti dei napoletani, un coro da stadio. Salvini dice: io ho chiesto scusa. E lo dovrebbe fare anche quel giornalista della RAI che ha fatto una grandissima stupidata. Io allora chiesi scusa, un conto però è avermi pizzicato in una festa, un altro conto aver fatto un servizio sulla RAI. Certo però, eccolo qui che Salvini, certo però che i tifosi del Napoli sono un po' particolari, e cioè, chiede Repubblica, beh, chiedete ai tifosi delle squadre in trasferta quando vanno allo stadio di Napoli, piove in testa di tutto, oggetti, sputi, urina. I supporter del Napoli non sono tutti così, per carità, però è una tifoseria un po' particolare. Così Salvini, che dunque un po' rincara la dose, intervistato da Repubblica a pagina 17. Su questo tema leggo il Buongiorno di Massimo Gramellini: fogne e bidet. Quando si scriverà il libro più lungo del mondo, l'enciclopedia della stupidità umana, due righe verranno dedicate al servizio trasmesso dal TG3 Piemonte. Il giornalista che chiede a quei famigerati che per uno di quei famigerati pezzi che si definiscono di colore, chiede a un tifoso juventino se sia in grado di distinguere i napoletani dai cinesi in base alla puzza. Nella scenetta tutto è grottesco, l'intento ironico incomprensibile, perfino il fatto che a discettare razzisticamente sui terroni sia un ragazzo dal vistoso accento meridionale. Un tempo il siparietto penoso non avrebbe oltrepassato le valli piemontese. E invece così la puzza dei napoletani è diventata argomento di discussione nazionale, riaprendo le solite ferite freschissime che risalgono al Risorgimento. Saviano ha scritto: quando i piemontesi videro il bidet nella reggia di Caserta lo definirono oggetto sconosciuto a forma di chitarra. Vero, in Piemonte all'epoca non avevano i bidet, però avevano le fogne, mentre gli impianti borbone, per potersi pulire le loro terga nel bidet, tenevano il resto della popolazione nella melma. Insomma, vedete un po' dove ci ha portati quel servizio stupidino. Comunque, a scanso di equivoci, per lo scudetto io tifo Napoli. Questo Massimo Gramellini, il Buongiorno di oggi. Allora, vorrei partire sempre dalla legge di stabilità, perché come ieri abbiamo detto è sotto attacco a livello tenaglia da parte dei partiti che stanno cercando di far apportare in Parlamento, oggi approda in Parlamento, modifiche soprattutto a che cosa? Beh, ai tagli alla scuola, e già su questo pare che ci siano delle modifiche in maniera chiara, nel senso che, come titola a pagina 8 il Sole 24 Ore, scuola dietro front sui docenti. è saltato già il motivo per cui molti docenti hanno protestato, erano pronti a protestare, vale a dire l'allungamento, il prolungamento a 24 ore dell'orario degli insegnanti. Così scrive Marco Rogari a pagina 8, ed è quasi sicuro anche lo stop della tassazione sulle pensioni di guerra e sul TFR. Sono questi i primi due punti fermi del pacchetto di modifiche che saranno apportati alla Camera alla legge di stabilità sulla base del nutrito menù di ritocchi stilato dalla maggioranza. Tutto invece il capitolo delle scelte fiscali, vale a dire l'aumento dell'IVA da luglio dell'anno prossimo di un punto percentuale e il taglio di due punti dell'IRPEF dei redditi più bassi, su questo bisognerà attendere, scrive il Sole 24 Ore, l'esito degli incontri di Monti questa sera con Angelino Alfano e Silvio Berlusconi e domani con Bersani, dopo che il Premier ha visto ieri invece il vice segretario del PD Letta e il leader dell'UDC Casini. Dunque, già sulla scuola, dietro front sui docenti. Come titola, infatti, la carrellata di titoli è questo, anche Libero: il governo si arrende, la manovra cambierà. Repubblica, pagina 6, manovra IRPEF, tutta da rifare. Il Manifesto, il passo del gambero del ministro Profumo sui tagli, sull'aumento delle ore alla scuola. Profumo di retromarcia, titola a pagina 2, indietro tutta del ministro sull'aumento dell'orario di lavoro dei docenti. Dunque, su questo già c'è stata una conquista dei docenti, di quelli che protestavano. Segnalo l'intervista al sottosegretario all'economia Polillo, Gianfranco Polillo, intervistato da Repubblica a pagina 6. Dice a Valentina Conte: rinunciare a tagliare le prime due aliquote IRPEF e aumentare le detrazioni solo per i redditi bassi? Oppure lasciare l'IRPEF così com'è e cancellare l'aumento dell'IVA? Tutto si può fare a patto che i saldi restino gli stessi. Il Parlamento è sovrano, ma io dico attenzione, così dobbiamo riscrivere da capo la legge di stabilità. Dice Polillo: la nostra legge abbassa il carico fiscale per gli imponibili tra gli 8 e i 15 mila euro, ovvero per chi guadagna 20-25 mila euro l'anno, mentre a saldo zero per chi è sopra. Vogliamo accentuare gli sgravi che valgono 3,7 miliardi nel triennio per i meno abbienti? Benissimo, ma le classi medie ci rimetteranno. E poi sul tema del pareggio di bilancio: è garantito. Abbiamo fatto bene tutti i compiti con l'Europa. E sentite l'ultima battuta che Polillo regala sulla questione dell'IVA. L'aumento dell'IVA è regressivo, chiede Valentina Conte di Repubblica. E la risposta di Polillo è questa: è vero, è regressivo, ma almeno lo paga anche l'evasore che compra la Jaguar. E poi c'è tempo fino a luglio per evitarlo. Beh, in realtà l'IVA, come sa lo stesso sottosegretario Polillo, la paghiamo tutti, ma questa battuta: almeno lo paga l'aumento IVA anche l'evasore che compra la Jaguar, cioè per colpire l'evasore che compra la Jaguar, dunque aumentiamo l'IVA a tutti. L'avvertimento di Monti è questo: niente assalti, fermi i saldi. Così è il titolo a pagina 10 del Sole 24 Ore. Dunque, va bene le modifiche, il Parlamento è sovrano. In realtà è una, come scrive nel retroscena di Repubblica Francesco Bei a pagina 7, la tenaglia PD, PDL e UDC per la prima volta per motivi diversi. Magari il PD e il centrosinistra più protestando sulla questione della scuola, il PDL sulla questione fiscale di IVA e IRPEF. Però per la prima volta tutti i partiti che compongono, quasi tutti i partiti del Parlamento, hanno chiesto e chiedono con forza modifiche a questa legge. Tanto che questa tenaglia definita da Repubblica costringe il governo alla resa. E il Premier dice: confermiamo subito i saldi e l'aiuto ai ceti deboli, queste sono le cose più importanti, altrimenti la manovra, così come viene prospettata nei cambiamenti, non va bene. E certo, i giornali si concentrano anche molto sulle polemiche legate all'uscita di Elsa Fornero. Noi l'abbiamo fatta già sentire nel nostro bar Radio 24 alle 6.30 questa dichiarazione del ministro Fornero, che sui giornali trovate tradotta con un termine che lei non ha mai usato in italiano, almeno, cioè giovani non siate schizzinosi sul tema del lavoro. In realtà Elsa Fornero a un dibattito, a un convegno, ha detto, ha invitato i giovani a non essere troppo choosy, cioè con un termine inglese troppo selettivi. Si può usare anche tradurre in maniera colloquiale schizzinosi, ma più selettivi, no? To choose, scegliere. Quando dovete entrare nel mercato del lavoro, insomma, prendete il primo lavoro che capita, non state lì a pensare che ci sarà un lavoro sempre migliore, un lavoro meglio pagato. Cominciate a entrare nel mercato del lavoro. Questo era il senso del messaggio che il ministro dice: ho sempre detto ai miei studenti, entrate nel mercato del lavoro e poi da cosa nasce cosa, magari vi guardate intorno, ma non siate troppo, ecco, schizzinosi. Questo è stato tradotto, anche se lei ha detto: io non ho mai usato il termine schizzinosi, però sui giornali oggi è tutto un utilizzo di questo termine. Lavoro, Fornero ai giovani, non siate schizzinosi, a pagina 7 della Stampa. E poi ovunque c'è questo termine, anche il Quotidiano Nazionale: i giovani non siano schizzinosi. Poi cosa ha fatto? È andata a un convegno ed è stata contestata. Mi hanno impedito di parlare, sono avvilita. Così è andata via da questo convegno. I Cobas e la rete contestano Fornero, a pagina 11 del Corriere della Sera. Al ministro ai giovani: non siate troppo schizzinosi nella scelta del primo lavoro. E qui, come dire, ci sono due commenti opposti. C'è da dire che sono quasi tutti commenti critici, almeno nell'utilizzo di questo termine improprio, come minimo definito dai giornali. Per esempio Giuseppe Provenzano, in prima pagina dell'Unità, è molto critico e dice: la gaffa sui figli degli altri è successo ancora una volta. Il bersaglio delle dichiarazioni ebbre del governo dei sobri tecnici sono i giovani italiani, choosy in inglese of course, schizzinosi verso il lavoro sarebbero, secondo il ministro Fornero, i già bamboccioni, fannulloni, sfigati e mammoni. La distanza delle freddure ministeriali dal mondo offeso in cui vive la maggioranza dei giovani e l'esperienza di vita di tutti i giorni. Così inizia Giuseppe Provenzano sull'Unità. C'è da dire che uno dei pochissimi commenti di un commentatore che dice ha tutta la vita ragione Elsa Fornero è Vittorio Feltri sul Giornale. Il ministro del lavoro, scrive Feltri, si è esposta ancora una volta alle critiche facendo una dichiarazione impeccabile e quindi indigesta a coloro che ne erano i destinatari, giovani che faticano a trovare un impiego. Un discorso semplice, saggio, che però suona stonato, addirittura fastidioso agli orecchi delle nuove generazioni, convinte di essere discriminate rispetto alle precedenti. Cari ragazzi, ha detto la professoressa, dovete rendervi conto che in questo periodo di crisi non potete essere schizzinosi nella scelta o nell'accettazione del primo lavoro. Un tempo era consentito essere selettivi, perché le opportunità offerte dal mercato erano parecchie, oggi non è più così. Questo modo di argomentare, a nostro modesto avviso, scrive Feltri, non fa una grinza, peraltro non è molto diverso da quello che mezzo secolo fa era in auge fra noi, oggi diventati anzianotti. Insomma, Vittorio Feltri la difende, è uno dei pochissimi. Certo, questo tema e questa dichiarazione, questo editoriale di Provenzano sull'Unità, che dice fanno le battute sui figli degli altri, oppure un'intervista che trovo sul Quotidiano Nazionale di una ragazza, Marianna, laureata, che dice faccio la maschera a teatro perché non sono figlia di un ministro, mi porta per associazione ad andare a leggere quello che ho trovato sul Fatto Quotidiano a pagina 5. Tenetevi forte, perché il titolo è questo: la buonuscita del figlio della Cancellieri. Il figlio della Cancellieri cioè il figlio del ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri. L'articolo di Giorgio Meletti, tenete in mente questo titolo: la buonuscita del figlio della Cancellieri, è possibile lavorare 14 mesi, cioè un anno e due mesi, e prendere una liquidazione di 3.600.000 euro? Pare che sia possibile. Eccoci qua allora, la buonuscita del figlio della Cancellieri, il manager Pier Giorgio Peluso, leggo dal Fatto Quotidiano, figlio del ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri, ha incassato 3,6 milioni di euro di buonuscita dal gruppo assicurativo Fonsai dopo essere stato dirigente generale per 14 mesi. nella generosa distribuzione di prebende che le società italiane sono abituate a perpetuare a dispetto della crisi e i loro top manager, la vicenda di Peluso ha tutti i requisiti per battere ogni record, secondo il Fatto. Stando ai dettagli pubblicati dal sito, peraltro Repubblica.it, ma confermati da fonti Fonsai all'ANSA, Peluso è riuscito infatti a farsi pagare una liquidazione pari a 3 annualità di stipendio a fronte di dimissioni volontarie. Assumendo l'incarico di direttore generale nel maggio 2011, aveva ottenuto una clausola contrattuale con la quale gli veniva riconosciuta una sontuosa buona uscita anche in caso di dimissioni volontarie se fosse intervenuto un passaggio di mano del controllo della Fonsai. Dunque una clausola che la proteggeva dal cambio di azionista. Dopo 14 mesi, scrive il Fatto, ha avuto una buona uscita pari a 3 annualità, cioè 3,6 milioni di stipendio. Lo trovate sul Fatto Quotidiano a pagina 5. Bisognerebbe aprire un'ampia pagina, compatibilmente col tempo a disposizione, sul tema su cui aprono molti giornali, vale a dire questa sentenza per il terremoto all'Aquila che avete sentito ha condannato gli scienziati della Commissione Grandi Rischi per omicidio colposo a 6 anni all'interdizione dei pubblici uffici. Sono 7 gli esperti a grandi rischi perché hanno dato avvertimenti insufficienti, hanno sottovalutato i rischi evidentemente di quello che poi si è rivelato essere il terremoto costato la vita a 302 persone. All'Aquila fu omicidio colposo, questo è il titolo sul Corriere della Sera. Tra l'altro c'è l'ex presidente dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia Boschi che dice: io, disperato dopo la sentenza, avvilito, non ho ancora capito di cosa sono accusato, non ho mai rassicurato nessuno. Perché avrei dovuto farlo? Per perdere credibilità? In quella riunione che durò pochissimo io dissi che non si può prevedere e quindi non si può nemmeno escludere nulla. Ma perché nessuno smentì le rassicurazioni? Il compito della comunicazione non tocca certo alla comunità scientifica. E poi si paragona a Galileo. È una condanna come ai tempi di Galileo, cioè condannata la scienza. Ed è questo il tema. Anche sul Messaggero viene intervistato Boschi che dice: accuse senza senso, sono sconvolto e frastornato. È l'uomo che parla di più, Boschi, anche sul Quotidiano Nazionale. Il Giornale la mette così: non leggono il Futuro, sismologi condannati. Mentre sulla Stampa, pagina 5, una vergogna per il paese, nessuno farà più il sismologo. Boschi dice: non ho mai rassicurato nessuno, mi accusano di non avere previsto il sisma. Insomma, questo è un tema molto dibattuto sui giornali, questa sentenza che sta facendo discutere. Vabbè, ci sarebbe ancora spazio per la politica, vi do 2 notizie. La prima, secondo Repubblica, è che Berlusconi ha scelto e tornerà a Forza Italia. Questo nel ondivagare così, nell'ondeggiare di Berlusconi, spesso in silenzio, avrebbe detto ai suoi collaboratori, confermando il Popolo della Libertà è finito, l'unico brand che tira ancora è questo, Forza Italia, quindi un ritorno al passato. Mentre secondo altri gossip della politica, di Libero, Alfano è tentato a fare che cosa? Un colpo di mano nei confronti di Berlusconi. Libero conferma, a dispetto di quello che si dicono privatamente, i rapporti tra i due sono molto freddi. Alfano sarebbe pronto, questo è il titolo a pagina 8, a fare un blitz e annunciare le primarie del centrodestra anche in settimana. La strada che Cicchitto evoca come alternativa alla candidatura di Berlusconi, l'annuncio delle primarie. Staremo a vedere questa settimana se sono solo retroscena della politica. Mentre il Messaggero titola in prima pagina che Giovanna Melandri sarebbe pronta e costretta a fare un passo indietro sulla nomina che tanto ha creato polemiche al Maxi. Governo, pressing su Melandri per un passo indietro dal Maxi. Sapete che è stata accusata di essere stata già riciclata, ecco, la politica che non si candida più, subito piazzata a direttrice, a presidente del Maxi. Lei al Maxi ci andrebbe anche a titolo gratuito, scrive Claudio Marincola sul Messaggero, così da mettere a tacere tutte le polemiche, ma adesso pare che all'interno del governo ci siano molti a dire questa presidente designata dal ministro Ornaghi, l'unico che non ha consultato gli altri membri del governo, perché le prerogative di nomina spettavano e spettano solo al ministro della cultura. Ebbene, ora a Palazzo Chigi cresce un po' il malumore sulla nomina. Ornaghi non ci ha consultato e dunque si preme perché arrivi un passo indietro di Giovanna Melandri e che ceda a questa nomina. Lo farà? Non lo farà? Staremo a vedere anche questo. Voglio chiudere un minuto con alcuni titoli sulla vicenda che ha terremotato il mondo del ciclismo, vale a dire Lance Armstrong, titola Repubblica, zero titoli. Questo nella prima pagina di Sport con Maurizio Crosetti, o il grande imbroglio sulla stampa, Lance Armstrong, colui che ha vinto tanti Tour de France dal 98 al 2011, è colui che ha sconfitto il cancro, che era sembrato l'emblema dello sport, dello sport pulito, anche se ora dicono tutti sapevamo, ma forse qualcuno ha chiuso un occhio o due occhi. Ebbene, Lance Armstrong è stato cancellato dal ciclismo, via tutti i titoli, ora gli sponsor lo abbandonano, ora ci ridia i soldi, così dicono alcuni. Insomma, il grande imbroglio, trovate un bel commento di Gianni Mura in prima pagina di Repubblica, il diavolo e i complici, ve lo segnalo, c'è solo tempo per dirvi, non per leggervelo, ma per dire ve lo segnalo sulla vicenda di Lance Armstrong e la suo grande imbroglio con il doping. Siamo qua alle 8 e 18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, vogliamo tornare sul tema delle province con il nostro primo ospite, perché sapete che è un momento decisivo nel quale dovrebbero essere tagliate, abolite 36 province, ma ieri abbiamo letto questa parola magica in Italia, le deroghe. Ci sono province che chiedono le deroghe, regioni che chiedono le deroghe per alcune di queste province. Una di queste è quella presieduta da Massimo Sertori, presidente della provincia di Sondrio. Buongiorno presidente, eccoci qua. Buongiorno. Siamo dunque in Lombardia, nella splendida Valtellina. Presidente Sertori, perché la deroga a Sondrio? È vero che io ho letto ieri sul Corriere perché ci sono le montagne? Beh sì, le montagne, il tempo non le ha ancora corrose, ci sono ancora. Sì, sì, per carità, e che rimangano lì in eterno, sono splendide montagne peraltro. Beh, guardi, il nostro è un territorio interamente montano, ci sono sia il versante orobico che eretico in tutte le valli trasversali. Diciamo che i nostri collegamenti non sono facili, mettiamola così. Ecco, e questo senza dubbio. Però mi scusi, è lunga 200 chilometri. È bellissima, io poi la conosco, la frequento, è un posto magnifico. Però le chiedo questo. Mi scusi, ma ci sono le montagne, ma mi perdoni la battuta, ma chi se ne frega di mettere una provincia come istituzione per salvare il territorio? Cioè, serve questo? Ma guardi, le spiego. In Valtellina ci sono 78 comuni, molti dei quali sotto 1000 abitanti, arrampicate, mi fa piacere che lei conosca la Valtellina, arrampicate sulla montagna. Questo nel tempo è quello che ci ha consentito di mantenere la montagna. In Valtellina ci sono 180.000 abitanti, ma ci sono 2 milioni di presenze turistiche all'anno. E abbiamo un unico collegamento, che è la strada statale 38, sì, per la quale, credo unico caso in Italia, visto che si parla dell'utilità delle province, una strada statale è stata finanziata per 90 milioni di euro da tutto il sistema enti locale, compreso le province. Proprio perché, ma non è che venendo meno la provincia verrebbe abbandonata la strada statale, comuni e regioni si occuperebbero della strada statale. Ma no? Direi assolutamente di no. Come noi no? Saremmo assolutamente marginalizzati. Tutti i servizi, a questo punto i valtellinesi per avere i servizi dovrebbero andare, guardi, lei pensi che se dovessero metterci insieme all'Eco, la nuova provincia, chiamiamola così, andrebbe da Livigno alle porte di Milano, e sì, quindi il povero livignasco deve alzarsi la mattina prima per andare a svolgere le proprie pratiche, i propri servizi alle porte di Milano. Sì, effettivamente è geograficamente è snodata per il lungo, e quindi lo so, da Livigno a Milano ci si mettono 4 ore per andare, no? Se tutto va bene. Però non ho ancora capito il nesso tra l'importanza del difendere il territorio, difendere i piccoli comuni, che magari se si accorpassero sarebbe anche meglio, ma comunque l'importanza di difendere legittima tutto questo e la necessità di avere l'istituzione provincia per fare questo. Vabbè, l'istituzione provincia tende anche la base provinciale, no? nel momento in cui non ci fosse più l'istituzione provincia, il fatto che non ci sarebbe più una sintesi sul territorio e quindi non avremmo più una rappresentanza politico-istituzionale che per noi è solo la provincia, e deve considerare che il nostro territorio è chiuso anche, da una parte ci sono, c'è il Trentino, c'è Belluno e le province autonome di Belluno, di Trento, sì. E dall'altra parte abbiamo la Svizzera, che il cantone di Grigioni è uguale a noi, ha 180.000 abitanti, ma ha un bilancio di 2 miliardi di franchi. Ma tra poco la Svizzera ci arriviamo, perché voi avevate anche ipotizzato di dare un referendum. Però, Presidente Sertori, torniamo sulla questione attuale. Voi pensate, cioè avete chiesto una deroga, cioè com'è la situazione? Pensate di salvarvi? Secondo voi rimarrete in piedi? Guardi, innanzitutto i territori interamente montani in Italia sono solo due, sono Sondrio e Belluno. Appunto, quelli che dovrebbero salvarsi. Non ce ne sono altri, sono solo questi. E oggettivamente, togliendo la provincia e tutto quello che significa la provincia in termini di servizi, ma in termini anche di rappresentanza, questi territori si impoveriranno sicuramente, questo oramai è un dato acclarato. Se poi la scelta è quella, non ce ne frega niente, la montagna lasciamola spopolare, andiamo tutti verso la città, benissimo, è una scelta. Ma, Presidente, ma questo no, ma io, tra l'altro lei è della Lega, forse non l'ho detto all'inizio, ma non capisco perché se cade l'istituzione provincia, cioè lei, i consiglieri provinciali, l'istituzione politica provincia, la gente dovrebbe abbandonare le montagne, cioè non continuerebbe a vivere come ha fatto fino adesso, no, se non ci fosse la provincia. I livelli superiori, sia essa la regione o lo Stato, un territorio così marginale come il nostro, che dovrebbe sopravvivere sulla base di 180.000 abitanti, nonostante, ripeto e ribadisco, ci sono 2 milioni di presenze turistiche all'anno, sarebbe dimenticato in assoluto. Tant'è vero che quel poco che abbiamo ottenuto fino adesso l'abbiamo sempre ottenuto solo ed esclusivamente perché c'era l'istituzione provincia. Ma cioè, ripeto, il comune di Sondrio non fa nulla, i comuni non fanno ma nulla. Ma vedi, il comune, lei si immagina un comune di 1.000 abitanti, le faccio un esempio, Campo Dolcino, visto che lei conosce la Valtellina, immagino anche la Valcavenna. Sì. È un comune di 1.000 abitanti che in certi periodi della stagione arriva a 15.000 abitanti. Lei se lo vede il sindaco di Campo Dolcino con i suoi problemi, che va dal presidente della regione Lombardia o dal invece ministro. Diciamo la forza politica di un presidente di provincia è più no, il presidente della provincia qui è un po' come se fosse il sindaco dei sindaci, quindi rappresenta il territorio. Ah, il sindaco dei sindaci non è male, ma voi cioè è vera questa idea che il governo sta pensando a queste due deroghe per i territori completamente montani, cioè Sondrio e Belluno, cioè anche voi ci sperate oppure? Ma certo che ci speriamo, anche perché si muove su base di dati oggettivi, insomma. Voglio dire, rispetto a una riforma che è molto sventolata ma ha poco di giusto, lei pensi che sempre nell'articolo che ha letto lei, che ho letto anch'io ieri, c'è scritto che l'intenzione del governo è quella di sciogliere i consigli legittimamente eletti entro il giugno 2013. E perché ride? Perché sorride? No, rido perché le spiego. Io sono un presidente legittimamente eletto dai cittadini, il mio mandato dovrebbe scadere nel 2014. Da amministratore ho sempre pensato che un consiglio si scioglieva se veniva meno la maggioranza o ad esempio per questioni, per cause incredibili. Beh, ma se cancellano l'ente, cambiano le cose, non esiste sì, no, più ma, la provincia. Scusi, abbia pazienza, ma io l'idea che con un decreto si commissaria una provincia con un presidente eletto legittimamente, francamente... Cos'è il fascismo? Mi fa un po' sorridere, perché mi sembra talmente surreale che, voglio dire, magari non lo so, si fa per alzare il tiro e per raggiungere una mediazione, perché mi sembra francamente anche una cosa un po' pericolosa. Pericolosa. Ma... Senta, questa cosa del passato recente, che lei ha detto ci cancellano e allora faremo un referendum per andare in Svizzera. Voi la Valtellina confina, la Valtellina, la provincia di Sondrio, confina con la Svizzera anche. Io per la verità ho detto, siccome vogliono cancellarci, siccome noi confiniamo da una parte con le province autonome, che sono peraltro anche i nostri concorrenti con delle disponibilità economiche molto più elevate rispetto alle nostre, dall'altra parte con la Svizzera, che evidentemente per fortuna loro sono una confederazione, quindi ripeto, il cantone di Grigioni, 180.000 abitanti, le stesse montagne della Valtellina, ma un bilancio di 2 miliardi di franchi, noi di 50 milioni di euro ci vogliono pure cancellare. Allora io in quell'occasione avevo detto, vabbè, chiediamo ai valtellinesi cosa vorrebbero fare, chissà che magari preferiscono andare con la Svizzera, questo ho detto, poi dopo Ovviamente c'è stato chi mi ha detto: ma il presidente non sa che la nostra Costituzione non prevede. Sì. Tutti i professoroni che mi hanno spiegato queste professoroni, io non le sappia, non le conosco. Era ma lei, certo, ma lei l'ha fatto come provocazione. Insomma. Ma lei sta bene in Italia, comunque sta bene in Italia, ma se le mantengono la provincia. Diciamo che io sto bene in Italia, mi piacerebbe che l'Italia, da un punto di vista dell'architettura istituzionale, si trasformasse in, magari in una federazione come la Svizzera. Insomma, penso che andremmo molto meglio. Vabbè, questo è il sogno leghista. E allora, scusi, vada in Svizzera, cioè giustamente lei vede, è così facile, cioè pensare che tutta l'Italia si trasformi in Svizzera è più semplice portare la Valtellina in Svizzera. Guarda, faccio una cosa, lei si mette nei panni dei miei concittadini, no? Noi apriamo la porta dalla finestra, dalla stanza e vediamo la Svizzera. Che stanno bene. Allora chiudiamo, perché sennò ci incazziamo, apriamo quella della cucina e vediamo le province a statuto autonomo. Fate così le case con vietata l'esposizione a nord, così, sì, certo. Faccia una legge, vietate le finestre a nord, si a possono nord tenere a est, perché giustamente stanno bene anche un po' di là, in Trentino stanno meglio, sì. Vabbè, ma che dobbiamo fare? Vi hanno messo lì, come non sono corrose le montagne, non sono erose e rimangano per millenni. Io credo che bisogna ricondurre questa discussione in un termine di serietà. Allora, oggettivamente, territori come quello di Sondrio e Belluno sono territori francamente molto disagiati, bellissimi, mi fa piacere che lei conosca la Valtellina. Sì, ma ho fatto l'infanzia a Piateda, frequento Tresivio. Ma io sono di Ponte in Valtellina, quindi siamo proprio vicini. E ci possiamo incontrare. Ci possiamo incontrare. Senta, vabbè, quindi voi confidate in questa cosa, cioè non ci saranno sorprese, il governo, ma lei al ministro Patroni Griffi, se potesse fare un appello, visto che ha detto commissariamo tutto eccetera, cosa può dire per Sondrio, per Belluno se vuole, ma più per Sondrio? Dica qualcosa. Ma Sondrio e Belluno, rispetto a questa riforma, allora io non sono pregiudizialmente contrario al riassetto delle province, peraltro io sarei favorevole a un riassetto anche delle regioni. Se lei pensa che ci sono regioni di 350.000 abitanti, sì, non so che significato possono avere. Secondo me queste riforme bisogna farle in modo un po' più organico, un po' più ragionato e forse un po' meno da bandiera, da sventolare e dire: ecco, siamo stati bravi, abbiamo tagliato 50 province che non servono a nulla. In realtà poi le cose non sono sempre nero o bianco, sono un po' più complesse, un po' più complicate. Mi pare evidente che comunque tra i vari effetti collaterali non previsti da questa riorganizzazione c'è anche quello di cancellare province come quella di Sondrio e di Belluno, che francamente io dico sono l'emblema della provincia. Sì, no? Però fa un po', mettiamola così, io poi se voi vi salverete sarò contento per voi, però leggere sul giornale che Sondrio e Belluno si devono salvare perché hanno le montagne fa un po' ridere. Cioè, messa così. No, beh, ma questo se hanno le montagne, mi scusi, allora pazienza, però significa una difficoltà di collegamento. Ma d'accordo, ma corso, certo. Dire, ma che... sì, ma siamo sempre lì. E allora serve la provincia perché ci sono collegamenti più difficoltosi. È questo. Beh, a meno che vogliamo completamente isolare territori come questo, è inevitabilmente. Ma non vengono isolati senza la provincia, no? Non vengono, continuano. Ma cioè, quando non c'era la provincia, 100 anni fa, vivevano come adesso, no, guardi, ovviamente. Ma anche 100 anni qui fa. Devo smentire, la provincia di Sondrio esiste da prima dell'Unità d'Italia. Anche questo, ci sarà un motivo se già in epoca napoleonica tutti quelli che ci sono stati fregato, hanno deciso di fare la provincia. Ma fregato. Quindi l'ho fregato anche su questo. Va cosa. Bene, ma fregato con la storia. Grazie presidente, buona giornata ovviamente. Ci Massimo. A Piateda, buona giornata. Certo, a Tresivio. Massimo Sertori, presidente della provincia di Sondrio. Grazie per essere stato con noi della Lega. Allora, oggi si leggono alcuni titoli di giornali che politicamente sono orientati in modo ben diverso. Per esempio, sul Manifesto, una legge vendetta; su Libero, una legge che colpisce la libertà di stampa; sul Fatto Quotidiano, legge bavaglio. Come vedete, i toni dei titoli sono simili, ma i giornali ben diversi, schierati dal punto di vista editoriale. A che cosa ci si riferisce? Ci si riferisce alla legge sulla diffamazione a mezzo stampa, che è in discussione la Commissione Giustizia del Senato, potrebbe essere approvata oggi, e che appunto diversi organi di stampa definiscono come in realtà una legge vendetta, nata per far evitare il carcere al direttore del giornale Alessandro Sallusti, condannato a 14 mesi per diffamazione, prevede degli inasprimenti nei confronti della stampa. Questo dice la stampa, ovviamente, in generale, e ne vogliamo discutere, vogliamo capire se è così, se è vero. Molto duro, per esempio oggi il Fatto Quotidiano fa un'intera pagina, e abbiamo con noi Marco Lillo del Fatto Quotidiano, che saluto. Buongiorno Marco e benvenuto. Buongiorno a voi. Saluto anche il senatore Lucio Malan del Popolo della Libertà, fa parte della Commissione Giustizia dove si discute di questa norma, appunto. Senatore Malan, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno. Allora, non faccio parte della Commissione Giustizia, no, scusi, però ha presentato degli emendamenti. Le chiedo questo, oggi il Fatto Quotidiano mette per esempio alcuni di questi previsti inasprimenti che fanno titolare legge bavaglio, e cioè la rettifica che costerà molto cara, quindi un inasprimento dell'obbligo di rettifica, l'obbligo di pubblicare la sentenza in caso di diffamazione per intero e gratis, interdizione e pene che arrivano fino a 200.000 euro, possono arrivare fino a 200.000 euro, oppure la sparizione della cosiddetta manleva, anche se qui c'è da discutere se l'emendamento rimarrà, cioè la tutela contrattuale, la tutela legale per gli autori che fanno dei servizi. Insomma, cos'è, una legge punitiva nei confronti della stampa? Ma intanto in questa legge non c'è neanche una riga scritta da me, perché i miei emendamenti sono stati tutti respinti. Per quanto riguarda l'inasprimento della ratifica più costosa, la ratifica più costosa se l'organo di informazione non la pubblica e bisogna ricorrere al giudice per farsela pubblicare. E il giudice però non è che deciderà di far pubblicare qualunque cosa uno chieda di pubblicare. Naturalmente il giudice avrà facoltà, così come oggi ha facoltà, di dire quello che è e quello che non è obbligo, quello che è e quello che non è diffamazione. Aggiungo questo: già oggi la legge prevede che nel caso il giornale non pubblichi la smentita, sì, non la pubblichi con la stessa evidenza della notizia che smentisce, prevede che se il giornale non la pubblica ci sia un intervento della magistratura. Il problema è che fino ad oggi queste leggi non hanno funzionato. Però risponda, perché c'era una resistenza su questo. Risponda all'accusa che, come ha letto, come avrà visto sui giornali, tutti i giornali, in maniera, ripeto, quelli orientati dal punto di vista editoriale in modo diverso, accusano di voler fare una legge al Senato, una legge punitiva, una legge bavaglio. Io sto rispondendo, sì, perché se si va per slogan, allora vabbè, io posso inventare uno slogan al contrario, punitivi saranno i giornali, robe di questo genere. Se invece andiamo sui punti precisi, io rispondo a questa faccenda della rettifica. Ripeto, già oggi c'è l'obbligo di rettifica, spesso disatteso, spessissimo disatteso, sì, direi sempre disatteso nella parte dove richiede che la smentita abbia lo stesso rilievo della notizia data. E già oggi la legge prevede che ci sia un intervento del giudice se la smentita non viene pubblicata. Perché la novità è semplicemente, sì, che si sono cercate delle vie più efficaci, e direi che è una parte positiva della legge. Ecco, poi questo fatto della pubblicazione della, sì, sentenza e così via mi sembrano degli aggravi inutili. Le chiedo, perché si arriva fino a multe che possono arrivare fino a 200.000 euro? Così si vuole colpire degli editori, magari editori piccoli, cioè si vuole dissuadere dal fare giornalismo d'inchiesta, per esempio? Allora, sempre rischioso. Allora, io ho proposto degli emendamenti, tutti respinti peraltro, che commisurino le sanzioni di carattere pecuniario al costo della pubblicità su quel giornale, che è un ottimo, su quel giornale, organo di informazione, che sono un ottimo indicatore di quanto, come dire, di quanto sia redditizio, sì, di quanto si possa, sì, permettere quel giornale. Sono moltiplicato, però, con lei, che per un piccolo, quello che una multa che per un grande giornale è quasi trascurabile, per un piccolo giornale può voler dire la chiusura, e per cui questo va tutelato. Ma devo anche dire che già oggi ci sono le sanzioni, non ci sono neanche dei limiti oggi. Io ricordo che D'Alema, la famosa vignetta di Forattini dello sbianchettamento, sì, chiese, se ben ricordo, 2 o 3 miliardi miliardo, di lire, tre, che sì, è molto poi di più di 200.000 euro. No, questo per cui sì, non è una novità. Mi sembra che ci sia una certa artificiosità in questa addirittura campagna. Però le devo chiedere questo, di un emendamento suo, evidentemente, sì, anche questo respinto, visto che sono stati tutti respinti, che prevede questo: se l'offesa è recata a un corpo politico, amministrativo, giudiziario o a una sua rappresentanza, quindi immagino anche un parlamentare, rappresentante del corpo politico. No, beh, non c'è scritto. Beh, una sua rappresentanza. E comunque la dicitura è già nella legge. E comunque se è la pena viene moltiplicata per 5, cioè deve allora essere. Allora questo è sempre riferito a quei parametri che io propongo, di commisurazione al costo della pubblicità su quel giornale. Sì. E per cui deve essere la proposta, che poi naturalmente sono proposte che andrebbero vagliate e non respinte in massa come invece è stato fatto, va ricordato questo, che già oggi la legge prevede un aumento. Io propongo, coerentemente con una delle parti positive di questa legge, cioè che mette dei limiti, sì, perché altrimenti, ripeto, è stato, sì, nel passato sono stati chiesti, poi non ottenuti, ma sono stati chiesti dei miliardi di lire per una vignetta, e qui adesso il limite è 200.000 euro. Tra l'altro 200.000 euro, va bene, ma è perché vero, se è 200.000 euro in caso, sì, di pluri no, recidiva. Ma perché se l'offesa è recata a un corpo politico le pene dovrebbero essere aumentate di 5 volte? Bisogna chiedere al legislatore del 1948 che prevedeva un aggravio al corpo politico, e preciso che corpo politico è una istituzione. Sì, certo. E ripeto, qui non stiamo parlando di parlare male di qualcuno, perché io ho anche presentato un emendamento che dice in modo chiaro quello che già oggi è praticato, ma con molta incertezza, cioè perché ogni volta è un terno al lotto la sentenza, sia per il diffamato sia per il presunto diffamatore. Prevede espressamente che quando le critiche sono di carattere politico o ideologico non possa in nessun modo essere punito. Certo, qui si sta parlando di diffamazione. Si fermi un attimo, che così sentiamo Marco Lillo, perché ha messo tanta carne al fuoco. Sentiamo Marco Lillo alla domanda, a capire. È caduta la linea. Adesso recuperiamo con Marco Lillo. Allora, no, me lo rifaccia rispecificare, senatore Malan. Cioè, non capisco. Lei dice si rivolga al legislatore del 48, ma perché? Cioè, la ratio del fatto che se l'offesa è recata a un corpo politico le pene sono aumentate di 5 volte, oggi il fatto, scrive, è una difesa di casta. Cioè, se riguarda un politico, comunque un corpo politico, una sua rappresentanza. Qui abbiamo. È interessante questo punto, perché allora. Il vilipendio agli organi istituzionali è un reato previsto da tempo immemorabile, ed è tuttora. Allora, una cosa è il vilipendio, una cosa è la critica, anche feroce, anche pesante. Io accetto che si dia in senso politico del bandito. Ma va bene, ma è l'aumento però di 5 volte che non capisco. Cioè, allora, se uno fa un vilipendio, ripeto, è chiaro che deve pagare. Se mi lascia spiegare, può, sì, anche darsi che argomenti. Se no andiamo avanti a slogan, legge bavaglio, legge vergogna, e così argomento. Via. No? Però possiamo fare così, è un'informazione utile probabilmente. Però oggi la legge prevede un aumento della pena. Io credo che al momento in cui un giudice riconosce che viene gravemente diffamato un organo istituzionale, non una persona, come ha scritto un giornalista, Francesco Merlo di Repubblica. Sì. Esattamente, non è un politico. Se un uno corpo dice politico qualcosa di male su di me, io non sono un organo istituzionale, non sono un corpo politico, io sono una singola ma persona. Ma contro, che ne so, che il Parlamento, uno diffama. Vabbè, ma il Parlamento. Lei continua a parlare, faccia pure da solo, io ascolto, ma mi basta. No, la radio, faccio un esempio, dico non una persona, ma dico se uno diffama il Parlamento, per esempio, come, sì, istituzione, allora, sì, in questo caso. Allora, se uno diffama il Parlamento con, sì, un articolo, ma diffama, ma non che nel senso che qualche parlamentare si sente offeso, nel senso che il giudice dice, sì, che qui si va al di là della critica politica, si va al di là dell'espressione di un'opinione, anche se forte, anche se pesante, con tutti i diritti a fare gli svolazzi di penna che si vuole, insulti, eccetera, eccetera. Ma se c'è una diffamazione, cioè viene detta a proposito del Parlamento una cosa, sì, non vera e gravemente lesiva della sua dignità, già oggi la legge prevede un aggravio di pena. Ma io la quantifico nella misura di 5 volte il costo di una pubblicità di pari ampiezza di quanto era la. Cioè, lei ha quantificato diffamante solo una cosa prevista già. Allora, Marco Lillo, il senatore Malan dice basta con gli slogan, legge bavaglio, se vogliamo possiamo andare avanti così, ma in realtà lui ha argomentato alcuni punti che lui ritiene fondamentali da stabilire. Perché non c'è una difesa corporativa da parte di tutti i giornali a dire una legge bavaglio, certo i giornalisti adesso sotto attacco si difendono così. È evidente, non potrei negare che questo dato c'è, però è anche vero che spesso si dimentica che noi siamo portatori di un interesse collettivo in qualche modo, cioè noi siamo quelli che teoricamente dovremmo informare il pubblico, perché poi alle elezioni o comunque in altre situazioni importanti per la cittadinanza abbiano gli strumenti per decidere. Ora, è evidente che un giornalista sul quale pende la possibilità di rispondere con il patrimonio proprio dell'editore, del direttore, di quello che scrive in maniera così pesante, non è un giornalista libero, e quindi dovrebbe essere, diciamo, come dire, il pubblico stesso a difendere la libertà di stampa come un proprio interesse. In realtà in Italia noi non godiamo di grande fama, diciamo la verità, e spesso veniamo visti anche noi come una piccola casta, e quindi in qualche modo questa sembra una difesa corporativa. Allora, la domanda forse da porsi è effettivamente in passato cosa è stato fatto di questa libertà di stampa nei limiti in cui era garantita anche dalla legislazione precedente o comunque vigente attualmente. Quindi questa è una domanda che ci dobbiamo porre come autocritica. Una sorta di autocritica va fatta. Detto questo sono convinto che tra 10 anni, se dovessero passare queste norme, non saremo tanto noi a perderci, ma quanto la pubblica informazione, insomma, la formazione della pubblica opinione non sarebbe così democratica, così libera come adesso. Ma io, per esempio, senatore Malan, lei trova giusto che un editore debba in qualche modo rischiare queste multe molto alte, e quindi con il rischio che cosa faccia? Che entri in redazione e dica fammi controllare cosa stai scrivendo, perché io un domani non mi voglio trovare a sborsare dei soldi. E se un editore entra e vuole controllare quello che un giornalista sta scrivendo, come dice Marco Lillo, il giornalista non è più libero di scrivere quello che ritiene una notizia, senatore. Ha perfettamente ragione. Io infatti è una delle numerose parti che non condivido di questa legge, di cui, ripeto, non ho scritto neanche una sillaba, perché i miei emendamenti sono stati respinti e anche il mio disegno di legge che ho presentato è stato ignorato nella stesura. E dico che la libertà di stampa è sacra, è una delle due cose indispensabili a una democrazia per funzionare. L'altra, naturalmente, è la libertà di votare e delle istituzioni che funzionino. Però la libertà di diffamare è un'altra cosa, di diffamare dicendo cose false. Uno può fare tutte le campagne, anche personali, che vuole, attaccando una persona, eccetera, eccetera, ma non attribuendo a questa persona cose false. Ma già adesso oggi paga, se uno diffama paga adesso. Guardi, paga qualche volta. Beh, se un giudice dice che deve pagare, paga. Lo so, il problema è che c'è una tale indeterminazione, è un'altra delle cose che io ho proposto, come detto prima, io ho tra gli emendamenti che ho presentato, ce n'è uno che specifica che quando si tratta di critiche di carattere politico, ideologico e di opinione, non può in nessun caso essere ritenuta diffamazione, ma l'attribuzione di un fatto, e anche c'è un emendamento però che dice che l'attribuzione di un fatto che costituisce reato è in ogni caso diffamazione. Questo oggi purtroppo non avviene, succede di persone condannate per aver espresso magari in modo piuttosto pesante delle opinioni, ma alla fine delle opinioni, cioè io dire che un certo politico è rovinoso per il paese, è una sciagura, è un bandito, io dico può non essere elegante, ma bisogna poterlo dire, perché siccome ce ne sono di politici pericolosi, bisogna poterlo dire, e magari anche a quello che non però lo è. Però allora vorrei tornare un attimo, si può attribuire a una persona una cosa che ma non questo ha sì, però sull'emendamento che è stato cassato, quello del corpo politico, se l'offesa è recata a un corpo politico le pene sono aumentate 5 volte. No, beh, certo, io vado avanti e leggo sempre da questo emendamento. Costituisce offesa a tali soggetti, tra le altre cose, l'attribuzione di emolumenti. No, la falsa attribuzione, legga bene, la falsa attribuzione. Sì, cioè lei può dire che io guadagno, se guadagno 100 euro, me lo faccia leggere, però costituisce offesa a tali soggetti l'attribuzione di emolumenti presentati come eccessivi e non realmente erogati. Quindi se io dico che lei guadagna 100.000 euro al mese e non è vero, questa è un'offesa. Bravo. Che prevede una moltiplicazione per 5 della pena. Perché se lo spazio che lei ha usato per dire una cosa falsa, inserzionista costa 100 euro, mi sembra anche giusto che li paghi 500 questa euro. Questa appare una difesa un po' di, come dire, siccome c'è tanto il tema sugli stipendi dei parlamentari, appare un po' una difesa di casta. La trasparenza sugli stipendi dei dei parlamentari e dovrebbe esserci sugli stipendi di tutti, anche su certe erogazioni alla stampa e tutto quanto. È più che giusta, ma dire che uno prende 100 quando prende 50 quando prende 20 è specialmente oggi è diffamante. Sa bene che oggi è più grave l'accusa di aver preso 1.000 euro in più piuttosto di quello di aver fatto una legge che No, su questo è un modo per specificare. Io dico va benissimo anche fino al centesimo, siamo l'unica categoria di cui si sa fino al centesimo quello che prende rimborsi, i rimborsi inclusi, è giusto. È uno dei pochi paesi dove questo succede, ma è giusto, ma è ingiusto dire che uno prende 1.000 quando invece prende 100. Ingiusto, i comunali sono delle va bene, ma dire che ingiusto è corretto, ma dire che questo comporta come meccanismo che spiega lei di un aumento di 5 volte a diffamazione perché io ho detto che lei guadagna più di quanto guadagna, mi sembra eccessivo questo, mi scusi. È un modo per quantificare, non è vogliamo fare 5, oggi dice che è un aumento e mi sembra evidente che oggi attribuire uno di guadagnare più è di quello che guadagna è altamente diffamante, basta aprire i giornali, no, è una colpa prendere uno stipendio. Allora, su questo mi faccia chiudere con Marco Lillo. Marco Lillo è un pasticcio e quindi era meglio che rimanga la legge che c'è adesso a sto punto? Ma dunque per alcuni aspetti sì, perché sicuramente prevedere delle pene automatiche minimo di 30.000 euro in caso di diffamazione a seconda diciamo dei casi oggi si può stabilire un risarcimento ben più basso, quindi come dire si sa che in caso di causa persa si parte da 30.000, poi ci sono delle aggravanti se c'è l'attribuzione di un fatto determinato e si sale ancora, poi c'è la pena pecuniaria prevista anche per il direttore, complessivamente una causa per un articolo persa può costare dai 50.000 euro in su. Questo è evidente che per un giornale magari che non ha alle spalle un editore è un problema molto, molto grosso, come per esempio il mio giornale, per dirne una. Ricordo che il nostro capitale sociale iniziale del Fatto Quotidiano era 600.000 euro, quindi è evidente che vuol dire che perdere sei cause di questo tipo ti porta a chiudere il giornale. Peraltro sottolineo che ci sono degli editori che possono permetterselo, perché vediamo il caso del giornale, no? È evidente che nel momento in cui la famiglia Berlusconi dovesse perdere anche 10, 20, 30, 40 cause con un giornale che potrebbe essere magari strumento di una battaglia politica piuttosto che di una semplice attività editoriale e che quindi non punta all'equilibrio del bilancio ma punta ad altri equilibri, è evidente che questo tipo di legislazione favorisce l'editore ricco e favorisce l'editore libero, io la vedo così. Colpisce... Altro aspetto che voglio sottolineare, che mi sembra molto importante, è che quando si parla di queste materie bisogna ricordare che la legislazione non è che è molto difficile perdere una causa. Io grazie a Dio ne ho subite un centinaio, ho fatto un conteggio tempo fa e non ho ancora una condanna penale, però non è difficile perderle. Ci fermiamo qua e ci troviamo domani alle 6:30.